Buonasera, grazie per essere qua. Io sono uno degli editori, una delle persone che partecipano alla produzione editoriale di questa etichetta che si chiama Questo Marco all'interno dei Libertori, che non dirò molto come introduzione perché credo che la persona che deve parlare questa sera spiegando il perché di questo libro è uno dei due autori, l'autore dei testi che è Michele. Io quello che posso dire è che sono molto felice di aver partecipato alla pubblicazione di questo libro un titolo un po' bizzarro, Il Gambero Nero, no? Perché fa un po' il verso il gambero rosso, no? Sappiamo tutti che cos'è una pubblicazione uscita in sordina come supplemento del manifesto nel corso degli anni 80, a metà o all'inizio degli anni 80, che poi ha avuto una fortuna straordinaria e si è risolta ora in una struttura molto potente dal punto di vista economico, dal punto di vista della trattazione delle questioni enogastronomiche. Noi abbiamo giocato abbiamo fatto questo giochino chiamando Il Gambero Nero questo libro perché appunto tratta la questione delicatissima del cibo e dell'alimentazione in quei luoghi della restrizione della libertà che sono le carceri. Abbiamo scelto di accettare l'invito che ci è piovuto dal cielo, perché noi non conoscevamo gli autori di questo libro, né il bravissimo fotografo né l'altrettanto bravissimo autore Michele dei testi. Ci è stata fatta questa proposta e siccome la casa editrice ha sempre avuto un po' come suo DNA, un po' così l'attenzione per i fenomeni che chiamiamo di carcerizzazione sociale, di controllo sociale, abbiamo guardato con molto interesse e curiosità questa proposta e poi invece abbiamo scoperto che non era solo una proposta bizzarra, ma era una proposta molto molto raffinata dal punto di vista dei suoi contenuti, delle sue espressioni, sia per quel che riguarda l'estetica, no? Che poi ne è derivata, così queste fotografie molto belle, molto intelligenti, e per questi testi di Michele che secondo me hanno il pregio di essere dei testi molto misurati. Cioè, Michele è uno scrittore, tra l'altro faccio anche un piccolo spot pubblicitario, presto verrà pubblicato sempre dalle nostre edizioni un suo romanzo che si chiama La Trota ai tempi di Zorro, ma speriamo di avere un'altra occasione per presentare questo bel romanzo di Michele. La scrittura di Michele è una scrittura che a me piace particolarmente perché è una di quelle scritture che si scrive dentro quello che io chiamo la sottrazione. Cioè Michele non scrive una parola più del necessario, non è ridondante, anzi ha una scrittura diciamo ecologica, sottrae, scrive lo stretto necessario e ha molta cura delle parole, rispetto delle parole, come diceva Sciascia, per cui è un bravissimo secondo me autore, molto attento a questo stile. E in più il fatto di aver posato l'attenzione sull'universo carcerario è qualcosa che rende molto merito a questi autori, perché noi sappiamo che la questione carceraria in questo paese è arrivata ad una situazione ormai non più gestibile per interessi biecamente elettoralistici, di consenso sociale, eccetera, eccetera, una serie di provvedimenti che avrebbero potuto limitare la drammaticità della situazione sono stati tutti quanti, sono finiti in nulla di fatto e la situazione carceraria peggiora di giorno in giorno in Italia. Penso che sia una delle situazioni peggiori a livello europeo, se non la peggiore. Quindi da parte nostra fare questo libro ha significato dare un contributo al dibattito che c'è sull'argomento e se in altre occasioni abbiamo trattato l'argomento in forma più classica, saggistica, teorica, scientifica, cercando di sviluppare un'analisi sulla questione con diciamo codici di descrizione più tradizionali, in questo caso abbiamo scelto di fare invece un libro di forte impatto suggestivo che appunto mescola le immagini di quello che è la popolazione carceraria attuale, che è caratterizzata ovviamente dal fenomeno così del miscuglio ormai delle popolazioni che ormai la abitano, perché per effetto della globalizzazione, di quello che chiamiamo globalizzazione, evidentemente la composizione carceraria non ha più nulla a che vedere ora rispetto a quella che era banalmente 20 anni fa. Oggi la popolazione carceraria include principalmente extracomunitari e una grossa componente di persone che sono legate al ciclo dello spaccio delle sostanze stupefacenti, no? Tra l'altro su questo dovrebbe aprire anche una parentesi, perché gli ultimi provvedimenti legislativi non faranno altro che peggiorare questa situazione, perché sapete che gli ultimi provvedimenti riguardo la questione degli stupefacenti comporteranno il fatto che ci saranno ulteriori detenzioni di massa di persone che sono legate a questo ciclo. Quindi questa scelta di lavorare, diciamo, su un codice, diciamo, di suggestione ha però sortito un effetto che comunque ha un suo rigore e una sua attenzione rispetto al fatto di portare in alto rilievo questa condizione attuale del carcere. E scegliendo appunto questa cosa curiosa che poi ha creato anche un po' una trafila, perché nel frattempo sono usciti altri libri che hanno posato l'attenzione sull'alimentazione, sul cibo, sul cucinare, su come si mangia in una situazione come quella carceraria. Sono usciti nel frattempo anche altri libri sull'argomento. E io personalmente sono sempre stato molto incuriosito, perché ovviamente ho un interesse personale rispetto alla questione del cucinare, ho una passione anche mia personale, sono sempre incuriosito alla questione. Immaginare e trattare l'argomento di come si può cucinare in carcere è un tema secondo me interessantissimo, perché dobbiamo ovviamente avere la consapevolezza che le condizioni non sono quelle di un normale logistico cucinario, no? In carcere ci sono delle restrizioni, tra l'altro carcere per carcere, che limitano, riducono, limitano, condizionano pesantemente la possibilità di disporre dell'utensileria, del logistico, diciamo, proprio della cucina, per poter realizzare dei piatti. Eppure il mangiare in carcere è una di quelle poche attività su cui è concentrata l'attenzione e la concentrazione dei detenuti. I detenuti in carcere non possono fare molte cose, e ovviamente il piacere che deriva dal mangiare e dal cucinare, dal preparare i cibi, è una via di fuga rispetto alla condizione di restrizione della libertà. Queste sono un po' le ragioni per le quali noi abbiamo fatto questa cosa, che apparentemente può sembrare bizzarra, ma che invece io ritengo sia una cosa molto seria e che si inserisce appunto in questo tipo di tentativo di contribuire alla riflessione su uno dei drammi principali di questo paese. Non aggiungo altro, anche se spero che poi nella discussione, tra quello che dirà Michele, l'autore dei testi, e magari il pubblico, spero di essere sollecitato a intervenire nuovamente, perché io sono fortemente tentato di parlare nel merito della questione del cibo e carcere, ma purtroppo ne potrei parlare però solo riguardo a una condizione che risale a una ventina di anni fa. Ora, io non conosco la realtà attuale. Questo libro sottolinea il fatto che la situazione si è modificata proprio in virtù del fatto che è cambiata la composizione dei detenuti. E non è un caso che il menù che Michele in maniera molto rigorosa ha riportato poi alla fine del libro riflette il fatto che è un menù, diciamo, molto variegato, che risente appunto delle culture che si sono incrociate all'interno della popolazione carceraria, che hanno intanto importato dei piatti che fino a 20 anni fa nelle carceri non si cucinavano, ma hanno creato anche delle commistioni, delle mescolanze, delle sperimentazioni, per cui paradossalmente da una situazione in cui la restrizione è altissima, le condizioni sono poverissime per realizzare l'arte culinaria, nascono le sperimentazioni, perché più ci si trova, no, in condizioni di difficoltà, nascono gli esperimenti, e spesso le innovazioni nascono dai pasticci, dagli esperimenti, dalle prove, dai tentativi, e a volte sul piano artistico, no? O sul piano banalmente di qualsiasi innovazione che avviene in tanti altri campi. a volte questo lavorare in condizioni di estrema limitatezza di mezzi riesce a incentivare la creatività e la sperimentazione e produce a volte effetti incredibilmente innovativi, tant'è che alcuni cuochi, anche di levatura indiscussa, hanno considerato queste ricette elaborate in carcere che Michele, ripeto, con molta precisione ha riportato, li hanno presi seriamente in considerazione. Sono piatti che escono dalla sperimentazione quotidiana di gente umile in fondo, non professionalizzata, non dei cuochi, degli chef, però queste ricette riportate secondo me possono far parte di una ricerca molto alta dal punto di vista della sperimentazione culinaria, e pensare che vengono elaborate in carcere è una cosa ben curiosa.